siete stra bene. Oddio. È stra strano. Ma da dove viene questo? Boh. Non lo so. Si sente stra bene. Lo so, si sente stra bene. Siamo in silenzio, si nota.